Oggi, 30 anni fa, Aldo Moro. È il 25 marzo 2008, intorno alle 16. A Torino, Roma, Milano e Genova, i postini delle Brigate Rosse fanno trovare il comunicato numero 2. Le Brigate Rosse hanno fatto giungere ad alcuni organi di stampa il comunicato numero 2 sul rapimento dell'onorevole Moro. Una telefonata anonima fatta da un uomo ha avvertito quasi contemporaneamente i centralini della redazione dell'Ansa e del quotidiano torinese La Gazzetta del Popolo che una busta era stata lasciata in una cabina telefonica. Al GR1 parla uno dei cronisti dell'Ansa che ha ricevuto materialmente il documento brigatista. Prima di tutto è datato 25 marzo 78, comunicato numero 2, e subito dopo l'intestazione c'è un titolo, il processo ad Aldo Moro, e poi c'è tutta una serie di... c'è la ricostruzione della carriera politica dell'onorevole Moro. Tu che hai letto il testo integrale, nessuna richiesta specifica? No, ancora nessuna. Trometta una tua valutazione personale, sei un esperto di cronaca, è autentico il messaggio? Direi di sì. Nel comunicato, le Brigate Rosse annunciano di aver iniziato l'interrogatorio ad Aldo Moro. Le domande intendono individuare quelle che i terroristi definiscono strutture internazionali e le filiazioni nazionali della controrivoluzione imperialista. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore.